la mia che usavi sempre tu per dormire. Ho avuto un dubbio, non ho nemmeno una foto con te, che non mi è mai fregato niente delle foto, eppure adesso ne vorrei una per ricordarmi che la felicità non è una truffa e non me la sono mica inventata oggi che non c'è. Ma quanto bello sarebbe tornare indietro, e invece oggi, oggi, oggi non ci sei e non ci sono neanche io. Io mi son fermato un po' di tempo fa a chiedermi che combino, che non combino, ma è niente di buono, il mio buono eri tu, e oggi non ci sei. Oggi mi sento come quando tu eri ad Amsterdam, sono tornato a casa che non c'eri e ho avuto paura che non tornassi, e quanto matto mi son sentito mentre piangevo, e quanto matto mi sento ancora mentre penso che è stato tutto meraviglioso. Persino litigare, persino piangere, persino i pugni sul muro in via Castiglione, persino sanguinare. Ma quanto bello sarebbe tornare indietro, e invece oggi, oggi, oggi non ci sei e non ci sono neanche io. Io mi son fermato un po' di tempo fa a chiedermi che combino, che non combino, ma niente di buono, il mio buono eri tu, e oggi non ci sei. Perché a me le cose piacciono dolci come le torte che cucinavi piano, ed era sempre domenica ed era sempre pomeriggio.